Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, appena battute dalle agenzie. La Francia è pronta a chiedere un rinvio supplementare all'Europa per il raggiungimento dei parametri europei sui conti pubblici. Così scrive Le Figaro, sottolineando che Parigi si prepara per la terza volta dall'inizio del quinquennio a non rispettare i suoi impegni di riduzione del deficit. Le Figaro riferisce che il premier Valls farà a settembre un tour europeo per convincere i suoi partner, a partire dalla Germania, che serve maggiore flessibilità nel patto di stabilità. E ora il caso drammatico dell'MH17. Prosegue anche oggi la riunione dei 28 ambasciatori europei per decidere nuove sanzioni contro la Russia, quale conseguenza della crisi ucraina e dopo l'abbattimento appunto dell'MH17 della Malaysia Airlines. Sentiamo il servizio. Estensione delle sanzioni europee sia a 15 cittadini russi e ucraini, sia a 18 entità russe o filorusse equamente ripartite tra aziende e istituzioni. Tra queste ultime si annoverano le autorità locali fondate da ribelli separatisti in Ucraina. Questa è la decisione presa ieri dai rappresentanti permanenti dei 28 paesi comunitari riunitisi per inasprire ulteriormente le misure dell'Unione. Sanzioni che vanno ad aggiungersi ai 72 nomi già colpiti dalla sospensione dei visti e dal congelamento degli assets finanziari. Nel mirino soprattutto gli oligarchi vicini allo zar Vladimir Putin. L'onda lunga dello shock generato dall'abbattimento del volo della Malaysia Airlines, per il quale l'Occidente sospetta fortemente i separatisti filorussi, ha fatto rompere gli indugi a Bruxelles. Ormai siamo a un passo dalla cosiddetta fase 3, quella più dolorosa per Mosca, poiché prevede vere e proprie sanzioni economiche, sanzioni che colpirebbero in primis la finanza e le banche statali russe e che potrebbero spingersi a un embargo sul commercio di armi, arrivando a toccare anche il settore energetico. Secondo il Financial Times, che ieri ha ottenuto anticipazioni esclusive sulle proposte elaborate dalla Commissione europea, si potrebbe giungere a un vero e proprio divieto per i cittadini comunitari di investire in strumenti finanziari di durata superiore ai 3 mesi emessi da istituzioni pubbliche russe. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Rupert Murdoch ha raggiunto con la controllata di Sky B un accordo per l'acquisto del 100% di Sky Italia e il 57,4% di Sky Deutschland. Nasce così la più grande pay TV europea. L'operazione non ha precedenti nel mercato televisivo europeo e si appresta a cambiare lo scenario finora offerto dalle pay TV. La mossa di Rupert Murdoch, che ha comprato il 100% di Sky Italia e oltre il 57% di Sky Germania, avrà sicuramente diversi effetti, principalmente due, come spiega il professor Marco Gambaro, docente di economia dei media all'Università Statale di Milano. L'effetto finanziario è che libera risorse per Fox, presumibilmente per tentare nuove acquisizioni. L'effetto di business è che dà un po' più di gerarchia e di solidità al gruppo televisivo europeo. Sostanzialmente, come spiega Gambaro, i tre mercati di Italia, Germania e Gran Bretagna vengono avvicinati e sarà più facile in futuro mettere in atto sinergie o pratiche commerciali comune, come ad esempio acquistare diritti in comune. Per le pay TV, che finora si sono sviluppate solo sul piano nazionale, sarà più difficile ora reggere la concorrenza. Ancora il professor Marco Gambaro. È possibile che questa mossa di Sky rimetta in discussione questa visione del mercato e favorisca un andamento verso una dimensione europea del mercato della televisione a pagamento. Per i clienti non cambia molto, spiega Gambaro, ma cambierà indirettamente nella misura in cui Sky sarà in grado di sviluppare sinergie fra tre grandi mercati e potrà accedere a diritti o dar vita a produzioni di taglio europeo. Stefano Totoro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Europa, infine, corre l'epatite C, con un numero di casi doppio rispetto alla B, lo afferma il rapporto dei centri europei per il controllo delle malattie, pubblicato alla vigilia della giornata mondiale dedicata alla malattia il prossimo 28 luglio. Tra il 2006 e il 2012, ultimo anno preso in esame, si sono avuti in Europa 110.000 nuovi casi di epatite C e 206.000 casi di C. Per quanto riguarda la prima, nel solo ultimo anno considerato, ci sono stati poco più di 17.000 a casi, di cui il 70% cronici, un terzo nella fascia di età tra i 25 e i 34 anni. Con questo è tutto. Europa 24 torna lunedì. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.